ringraziamo per aver come minimo cambiato un po' paese, perché noi, chi ci conosce sostanzialmente anche come associazione, abbiamo per lo più operato così a pochi chilometri da qua, quindi a Cassonnove. Infatti qualcuno giustamente, quando ha ricevuto i nostri inviti, email eccetera, ha detto: ma chi sono questi qua di Alambrano? In realtà sono sempre stati i partner dell'altra associazione con la quale non collaboriamo più. L'occasione che ci ha dato e che ci sta dando, ma fin dall'anno scorso, perché un inizio l'avevamo avuto anche l'anno scorso, di questa biblioteca in corta, soprattutto il comune di Cilavegna, ma anche direi tutti i cilavegnesi, è importante per noi, perché prima di tutto ci permette di realizzare, in questo caso io dico biblioteca e associazione, una rassegna come vorremmo, come la vogliamo, cioè portare la cultura dei libri affiancata alla cultura orale, anche alla tradizione popolare. È un modo comunque di approcciare la presentazione di libri, e comunque così la saggistica piuttosto che la letteratura, proprio così, in un modo conviviale. Tant'è vero che Bruno prima ha detto: no, io non ci sto con il tavolo così distante, e lui l'ha voluto spostare più avanti, e difatti siamo qui attaccati, perché il senso noi l'abbiamo spostato, perché in effetti abbiamo anche il film. Tra l'altro questo mi hanno detto, che prima era un cortile dove si proiettavano i film, quindi vivi Dio se siamo tornati noi a farlo proiettare. Poi dopo non so quanti poi staranno qui fino alla fine, insomma, perché comunque è un film bello, di culto, ma non è un film così c'è da dire che sarà un film che non passa in televisione, questo, che a meno che non finisca in qualche fuori orario. Bene, innanzitutto io ho citato Bruno, ma farei un applauso a Bruno Cartosio. Ecco, Bruno, di solito quando si ricominciano delle cose, vuoi partire con la base giusta, si ricomincia dagli amici, e noi consideriamo Bruno tale, abbiamo fatto diverse cose insieme, e lui comunque ha sempre accettato, ci ha sempre aiutato, e qui, nonostante poi dopo dovrà andare via un po' prima, dobbiamo dire il motivo precipuo per cui uno come te, che gira le università del mondo, va a fare relazioni a Torino, negli Stati Uniti, a Roma, e domani mattina si deve alzare prestissimo per andare a Funghi, perché deve andare qui, che zona, non dire la zona, perché sai, chi va a Funghi normalmente non la dice. Questa mai. Questa è una domanda da non fare mai. Non fare mai, esatto. Quindi questa è la sostanza per cui lui andrà via un po' prima. Tant'è vero, gli altri che invece stanno mangiando, e speriamo finiscano prima o poi, no? E no, loro invece parleranno di conflitti globali, quindi sono più conflittuali, infatti stanno recuperando calorie per parlarne di più. Bruno invece con l'occasione presenterà il suo libro, tra l'altro mi sembra sia una delle prime presentazioni, no Bruno, di questo? Sì, è la prima in assoluto. La prima in assoluto, ecco, e devo dire che a Cilavegna abbiamo la fortuna, in questa edizione, di avere delle prime assolute, perché anche domenica Cesare Bermani, tra l'altro amico anche di Bruno, nostro amico, uno dei più grandi storici oralisti italiani, presenterà Ti c'è nessun, tutti e nessuno, anche lui per la prima volta, un libro che parla del biennio rosso, delle lotte sindacali fatte soprattutto tra gli agrari negli inizi del Novecento, quindi nel 120, no, sostanzialmente, siamo in quegli anni, e collegherà il discorso per esempio alla storia del Biondini e del Muret, che sono due briganti di risaie. Qui ci sarà Zucca, che invece è ben conosciuto qui, preside anche di Mortara, e parlerà anche lui, quindi comunque un'anteprima anche quella. Allora, visto che ci sono in ballo, e ve li dico tutti gli appuntamenti, così poi li leggerete. Purtroppo noi partiamo con pochi in economia, quindi abbiamo quei manifesti scritti piccoli piccoli, molto piccoli. Voi venite a tutte le sere, così vedrete cosa c'è, insomma, sostanzialmente non abbiamo avuto la possibilità di fare gigantografie eccetera. Ma domani sera intanto, vabbè, c'è il film Chocolate, e vi invitiamo a recuperare qualche brano di qualche libro legato alla letteratura sui cibi, anche transgenici, così facciamo qualcosa di anche di diverso. E naturalmente chi presenta, noi così come avevamo fatto l'anno scorso, regaleremo libri, faremo scegliere a loro i libri nella mostra della prossima settimana, perché la prossima settimana nei giorni di venerdì, sabato e domenica allestiremo una mostra che già soltanto una settimana la Luisa, farei un applauso anche alla Luisa, tanto così tiriamo in ballo la Luisa, la bibliotecaria, la Luisa è da 10 giorni che vede solo libri, sta spuntando libri eccetera, e abbiamo una gran parte di un'editoria antica, anche quasi di culto, quindi quella dei movimenti degli anni 60 e 70, ne abbiamo trovati tutti, tant'è vero che il problema è stato riconvertire le lire in euro e poi comunque è tutto un lavoro fatto in collaborazione con l'archivio Moroni e il centro sociale di Via Conchetta, per cui COX 18. Avremo tanti libri in quello e avremo questa mostra che è aperta da venerdì pomeriggio fino a domenica sera con anche l'apertura al mattino. E questo per dire, domani avremo appunto questo film, domenica al pomeriggio in un cortile che non è che è un po' più decentrato, si chiama il cortile del Pulidin ed è comunque facilmente accessibile dalla zona, per chi conosce Cilavegna, dello spazio rosso, quella che era la discoteca di prima, e comunque dove c'è una delle rotonde sulla circonvallazione, dove c'è l'area delle feste, si entra di lì ed è una di quelle strade. Naturalmente daremo qualche indicazione. Un cortile bellissimo che tra l'altro proprio stimolato dal fatto che ci sarà questa presentazione di queste fiabe magiche, un libro sulle fiabe magiche lomelline, quindi in pura tradizione di storia orale, fatto da Marco Savini dalla moglie Maria Antonietta Rigoni, ma anche da Battista Colli, che è nostro paesano, un compaesano qua di Cilavegna. Comunque ci saranno questo bellissimo cortile che hanno attrezzato. La sera ci rivedremo qui appunto con tutti e nessuno, e tra l'altro ci saranno anche la possibilità di ascoltare canzoni, canti popolari, quindi si suonerà con Gianni Rota, che suonerà alcune canzoni, in modo particolare canzoni anche sul Biondino e il Muretto. Si riprende venerdì sera, venerdì, sabato e domenica tutto sarà spostato nel cortile del comune, o comunque nel retrocortile del comune, cortile poi della scuola elementare, dove nella mensa, che è di fatto uno chalet di legno, ci sarà allestita la mostra, che proseguirà anche nei corridoi della scuola, e dentro invece nel cortile lì ci saranno tutte le manifestazioni. Si parte dal pomeriggio con la presentazione di due libri, di due donne, Alessandra De Vizzi e Carmen Morrone, che parleranno di call center, parleranno di schiavi del 2000, parleranno in modo arguto. Ci sarà anche un intervento, per noi inauguriamo una serie che è quella, che non so se ci copieranno, quella del cabaret sindacale. Voi avete mai sentito parlare di cabaret sindacale? Non c'è molto da ridere oggi il fatto di sindacato eccetera, ma il fatto di far ragionare anche ridendo potrebbe essere un'idea. La sera, sempre qui stiamo parlando del sabato, ci sarà Fausto Amodei. Fausto Amodei, 71 anni, mitico, mitico, veramente padre di tutti i cantautori italiani, lo stesso Guccini lo dice spesso nelle interviste, è autore di Morti di Reggio Emilia, se non li conoscete, ma di tantissime altre, è autore di un periodo della storia, quella di Cantacronica, che vedeva insieme i Franco Fortini, Gianni Rodari, addirittura Umberto Eco, Italo Calvino, piuttosto che Michele Straniero. Il nipote di Michele Straniero ha fatto un libro proprio su quel periodo. Canterà insieme al Canto Sociale, canterà insieme a Giovanni Straniero, si proietteranno anche filmati di allora, quindi sarà tutto un immergersi in quella storia di fine anni 50, degli anni 60, dell'inizio della canzone. Tra l'altro lui, veramente 71 anni, si esibisce veramente di rado, è un'occasione. Ecco, sono arrivati, puoi venire. Facciamo cominciare lui allora. Ecco. Allora, niente, per finire, dicevo, il venerdì, ritornando al venerdì, ci sarà la presentazione di un libro invece prodotto dal Comune di Cilavegna, Voci Resistenti, con tutte le testimonianze orali di chi ha fatto la resistenza in vari modi qui a Cilavegna e anche nei comuni vicini, ma anche lì ci saranno canzoni sulla resistenza, quindi sarà una serata diversa. La domenica si conclude con il pomeriggio, un pomeriggio dedicato a una nostra amica e a suo papà. L'amica era Chiara Cordone, che con noi ha realizzato diverse iniziative, e il collegamento col papà, sia nei suoi libri, sia con un laboratorio per i bambini che sarà fatto, sia con l'intervento del Rodari Club che animerà con le canzoni, con canzoni legate anche ai libri proprio del padre. Il finale della sera è Bitume, asfalti di rime, una serata dedicata completamente alla poesia, con diversi poeti che interverranno, poesie urbane, poesie interessanti, con performance, anche ci saranno attori, ci sarà poi un gruppo che si chiama Mos de Rev, che presenterà invece un omaggio, più che di Andrea, proprio al disco di Andrea, Storia di un impiegato. A questo punto, ho parlato troppo, ma avete visto, ho servito, perché così lui è rientrato, e lasceremo la spazio prima a Max Guerreschi, gli farei un applauso. Max invece qua per presentare una rivista che è Conflitti Globali, e Bruno invece il suo libro che è Più temuti che amati, entrambi editi dalla Shade. Max.